1932, la FESAD, e questa è la FESAD 2, cioè la seconda parte, non è che ci sono due FESAD, è sempre la stessa, ma si dividono due parti. E il momento, come potete comprendere, è centrale dell'opera, e abbiamo visto con quale espediente Rodolphe è riuscito ad attirare Emma nelle sue trame, e è riuscito attraverso, con il pretesto di questa passeggiata a cavallo, ha portato i due in un bosco, e poi c'è stata una passeggiata, l'hanno lasciato il cavallo, sono andati verso una radura, e qui insomma la cosa è successa. L'elemento più interessante, oltre a questa contemplazione, per così dire, da parte del paesaggio intorno, è molto importante questa idea del paesaggio intorno, perché gli atti significativi della nostra esistenza sono accompagnati dal paesaggio. Qui c'è il paesaggio, le nuvole, il cielo, il tramonto che ti dà l'idea del tempo passato, insomma, cioè nulla si dice in effetti delle sue emozioni, ma si parla del paesaggio. Vi faccio notare che questa idea del paesaggio appunto compare nei momenti gravi della nostra vita. Facciamo un esempio: quando accade un incidente stradale, dopo un attimo noi ci rendiamo conto dell'ora in cui stiamo, dell'ora terribile che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, così nella morte di una persona, no? ci chiediamo per esempio nel caso della morte di una persona, che giorno è questo giorno, caso magari, che giorno è questo giorno maledetto, no? E vediamo che giorno sia, e qui lei percepisce questo paesaggio che ha visto il suo primo tradimento, ha visto il suo primo tradimento, mentre è così profondamente emozionata. Per Rodolphe, al contrario, è una cosa da nulla, per cui c'è quel gesto terribile, significativo, del aggiustare le briglie del cavallo con il temperino. No, non ha alcun coinvolgimento emotivo. Magari aprite un pochino quella porta lì, perché effettivamente poco, grazie, per dare un po' di aria. Nessun coinvolgimento emotivo. E questa in fondo è l'offesa più grande che si possa fare al partner dopo un rapporto sessuale, quello di non avere alcun coinvolgimento emotivo, perché in quel momento che ci si rende conto che il proprio corpo è stato usato, no? Questo vale in tutti i due sensi, che non c'è stato senza mobilitare la parola enorme, fondamentale della vita umana, che è la parola amore, ma non c'è stato alcun interesse effettivo. La meraviglia di quel coltellino che aggiusta le briglie fa proprio parte dell'arte di Flaubert, e vorrei dire del realismo in generale, il quale realismo, ricordiamoci sempre, ha bisogno di non far intervenire l'autore. Perché se l'autore intervenisse, si vedesse lui che racconta, l'emozione del lettore sarebbe inferiore. Quindi che cosa fa il realista? Il realista ricorre a situazioni oggettive per fare avvertire un sentimento. Ricordate che Emma sentiva la sua disperazione a tavola, mangiando la minestra, dice, tutta la disperazione sua si concentrava in quel piatto di minestra. E così qui, per descrivere il cinismo, la freddezza, la mancanza di partecipazione di Rodolphe, basta questa ammirabile scena del temperino con cui lui... Poi non c'è solo il temperino, c'è anche un'altra cosa, c'è il sigaro. Ha il sigaro, se non sbaglio, in bocca, aggiusta il temperino. Ora c'è fumo, perché come sapete chi ama il fumo dopo post coitum, maschi e femmine a volte amano fumare, ecco, certo se l'altro non gli piace il fumo diventa un po' una cosa complicata, insomma. ma il fumo ha un suo valore distensivo, no? Insomma, si fuma in certe occasioni particolari, si fuma quando si va in bagno, chi fuma? Io non fumo. Si fuma dopo. Dove? Quando è che si fuma? Quando è che si fuma? Dopo il caffè. Dopo il caffè. Dopo il caffè, direi anche i non fumatori a un certo punto fumano, no? Poi i fumatori fumano purtroppo anche durante il pranzo, cosa che mi fa andare in bestia, ma anche durante tra il primo e il secondo fumano, no? Poi c'è la sigaretta del mattino, insomma io, come vi ho detto più volte, ho con la persona con cui divido la vita una lotta a coltello su questo fatto del fumare, che Dio strafotta i fumatori da questo punto di vista, ecco. E però questo sigaro in bocca, capite? Poi il sigaro nell'uomo è una specie di prolungamento del pene, capite? Pensate, sì, come no? Pensate a Bossi, com'è che si manifesta nella sua arroganza? Sempre quel sigaro in bocca, tra l'altro uno che ha avuto, io mi sono sempre chiesto, ha avuto lì paralizzato così, fumare credo che non sia molto, no, tutto lo sfacelo della Lega non può essere altro che accolto da me con entusiasmo profondo, e con un allievo, con questo augurio che Dio li strafotta, non so se è chiaro il mio pensiero, come dire, alta, oggi la vedo allegra, è una specie sempre di ricerca della felicità, le mancherò quando non ci sarà più nessuno che inseguirà la sua felicità. Non mi appunto questo, io dico questo, le dico questo, uno per badare, scusate questa piccola parentesi, ma la mia interlocutrice, uno per badare al suo benessere, ma due per controllare la mia stizza, perché quando la vedo cupa mi arrabbio, e allora, ha capito? Una cosa. Bene, procediamo. Allora, tornano, e come vi ho detto, vi ho fatto quella citazione di Dickens di quel libro molto bello, Martin Chuzzlewit, quando uno vede gli stessi oggetti che però prima non erano testimoni del suo omicidio in Dickens, adesso lo sono. Ma guardate che l'adulterio e l'omicidio vengono percepiti in modo, il primo adulterio, ma anche il primo omicidio. C'era un terrorista, si chiamava Savasta, qui a Roma, tempi in cui voi non erano nati neanche i vostri, questo terrorista aveva fatto 17 omicidi, si prese 8 anni, era un pentitone, si prese 8 anni in tutto, il libro circola, Antonio Savasta, all'ultimo omicidio diceva che era andato al frigorifero, si era fatto un panino ed era andato alla televisione a vedere una partita che stavano trasmettendo in televisione, dopo aver ammazzato la 17esima persona, cioè ci si abitua al male, ci si abitua a tutto, ci si abitua a essere storpi, ci si abitua a essere assassini, figuratevi se non ci si abitua a tradire il proprio marito, la propria moglie, ci si abitua, la prima volta un tormento, la 15esima e la 18esima, insomma, c'è questa benevola carezza che noi diamo alla nostra anima, e quindi è chiaro, appunto. D'altra parte, la mia vecchia teoria è che i tradimenti devono essere benedetti, perché con i tradimenti si formano nuovi nuclei affettivi, familiari. Pensate che tristezza se non ci fossero i tradimenti, la società non si muoverebbe per niente. Ha capito bene? Che cosa dà un tradimento? Lo vediamo subito. Dà un senso di euforia all'inizio, poi viene il senso di colpa, di euforia, di... E qui Flaubert descrive la psicologia della donna dopo il tradimento come nessuno mai l'ha descritta. Mai. Questo capitoletto che vediamo si intitola sempre La Pesade, e lo vediamo nella pagina a fianco, Mais en s'apercevant dans la glace. Lo trovate? Bene. E allora sentite la translation. Ma guardandosi nello specchio si stupì del suo viso. Attenzione. Questa è cosa da leggere religiosamente, ma guardando nello specchio si stupì del suo viso. Mai aveva avuto gli occhi così grandi, così neri e di una tale profondità. Qualcosa di sottile sparso sulla sua persona la trasfigurava. Ella si ripeteva: ho un amante, un amante. Zitti, che è? Ella si ripeteva: ho un amante, un amante. Dilettandosi a quest'idea come a quella di un'altra pubertà che le fosse sopraggiunta. Stava dunque per possedere finalmente quelle gioie dell'amore, quella febbre di felicità di cui aveva disperato. Entrava in qualcosa di meraviglioso dove tutto sarebbe stato passione, estasi, delirio, un'immensità bluastra la circondava. Le cime del sentimento scintillavano sotto il suo pensiero. L'esistenza ordinaria non appariva che lontano, in basso, nell'ombra, fra gli intervalli di quelle altezze. Allora si ricordò le rovine dei libri che aveva letto e la legione lirica di quelle donne adultere si mise a cantare nella sua memoria con voci di sorelle che la incantavano. Ella diveniva come una parte reale, effettiva di quelle immaginazioni e realizzava il lungo sogno della sua giovinezza, considerandosi in quel tipo di innamorata che aveva tanto invidiato. D'altronde, Emma provava una soddisfazione di vendetta. Non aveva forse tanto sofferto, ma adesso trionfava. E l'amore, così per lungo tempo contenuto, sprezzava fuori tutto intero con un ribollio gioioso. Ella lo assaporava senza rimorsi, senza inquietudini, senza turbamento. Impossessata di me stesso. Questo è un tema molto interessante. Mi sono impossessato di me stesso perché in fondo la sofferenza della nostra vita, di Riffo di Raffa, viene sempre dal fatto che noi non ci conosciamo, no? Il successo, il lavoro sentimentale, quello che sia, è un modo per toccarci, per arrivare a noi. La routine, la vita quotidiana, la vita senza successo, ci distacca, ci aliena. Ma quando abbiamo avuto il coraggio di tradire, ci sono delle persone che sono legate a rapporti sentimentali maciti, però non hanno il coraggio di distaccarsi. C'è un numero incredibile di fidanzati e fidanzate infelici. Dovrebbero fare un passo in avanti, anche perché, restando nella situazione in cui sono, fanno anche, cementano per così dire l'infelicità del loro, della loro partner, ma non hanno il coraggio. Coraggio, questa è una parola importante, coraggio di lasciare un lavoro che non ti piace, che non ti piace, oggi uno non può permettersi, ma insomma di lasciare una condizione, che coraggio di andare ad abitare fuori di casa. Questo è un coraggio monumentale, monumentale. Ricordatevi questa parola: avevo un'allieva cieca completamente, non era nemmeno molto intelligente e mi stava molto vicino, quindi ho conosciuto bene la sua storia. E volevo solo accennarvi al fatto che i genitori la lasciavano per conto suo perché fosse più autonoma possibile. Insomma, una volta io avevo l'abitudine qui a Tor Vergata da tanti anni fa, insomma, ci vedevamo spesso con gli studenti fuori dall'università, prendere una pizza, vedere una mostra. Lei voleva seguirci, mi ricordo, a mezzanotte telefonò a casa perché i genitori venissero, il padre venisse, eravamo al centro, a riprenderla, e il padre le disse: tu sei venuta con i tuoi mezzi e con i tuoi mezzi torni a casa. Andò a vivere per conto suo, per essere ancora più autonoma, con un'amica. Beh, senza un'amica non poteva stare. Qualche tempo dopo, qui davanti, una macchina la investì, quindi fu all'ospedale, una cosa terribile. Ma lei, coraggio, lei che cominciava a fare lezione per guadagnare qualche soldo a dei ciechi, con il metodo Braille, tutte quelle cose lì, eccetera, lei volle andare via da questa amica che pure l'assisteva in qualche modo per vivere completamente sola, per cavarsela da sola. Queste grandi, terribili prove, via vedere naturalmente chi ha la forza di farle, insomma. Però io le commisuro queste prove qui, anche a prove quando uno rompe una situazione affettiva che non va, che non va. E quando uno cambia facoltà, perché capita che uno faccia una facoltà e poi a un certo momento ti rendi conto che non è quella per te. Freud dice che noi non cambieremo mai, è buona sostanza, è la vita che ci costringe a cambiare, ma se fosse in noi rimarremmo da adulti con il ciuccio in bocca. Capite? E quindi quando uno cambia nel tradimento si sente esaltato. Lei si guarda allo specchio e non si riconosce, cioè non si riconosce, si vede molto più bella. Avete visto che gli occhi della poverina cambiano? Abbiamo visto, abbiamo già parlato di questo. Erano occhi bruni, castani, erano occhi neri, però abbiamo visto anche che quando era a letto al mattino, quindi Gioia sorride perché sa tutto di queste cose qua, gli occhi erano azzurri, e poi tornano a diventare nei momenti della collera neri. E qui come sono gli occhi? Gli occhi sono grandi e bellissimi. E allora lei come ripete a se stessa per persuadere, si dice: come ho un amante, anch'io ce l'ho. E si sente entrare tra tutte le amanti della storia. Maledette. E questo la esalta. Prima era una piccola donnetta di paese, di provincia, una figlia di un contadino. E quindi c'era una discrasia fra questa sua vita di figlia di un proprietario, un piccolo proprietario contadino, e i libri romantici che aveva letto, in cui si parlava dell'amore, e poi a un certo punto si sposa e dice: ma come, ma questo è l'amore? Questo è quello per cui io mi sono, che avrei tanto desiderato. Si guarda nello specchio, questa è una scena fondamentale della Bovary, dice: ho un amante, con orgoglio, e c'è qualcosa di meraviglioso. Io vi ho già parlato l'altra volta che in Flaubert, così preciso nel linguaggio, usa questo pronome indefinito, quelque chose, per tre volte in due pagine. Dice: quelque chose de tout, quelque chose de subtil, quelque chose de merveilleux. Ma apposta lo usa questo pronome indefinito proprio per dare un'idea di indefinitezza. Quando noi abbiamo un sentimento grande che ci occupa, non è che abbiamo una dolcezza, non c'è una meraviglia, ma qualcosa di meraviglioso. Voglio farvi notare una piccola squisitezza mirabile: le cime, le sommet du sentiment scintillavano, vedete, danse lì, su sa pensée. Cioè è un po' come quando si è in aereo, no? Quando si è in aereo si vedono le montagne, in molti casi, che scintillano di sotto. Siete stati tutti in aereo in vita vostra, lei è stata in aereo, viaggia in aereo, lei è un ospite praticamente. presente quella strana sensazione, e io odio volare, poi purtroppo uno è costretto a farlo, insomma, ma insomma sì, non ci fosse l'aereo, la mia vita sarebbe molto più tranquilla, insomma. Quando le montagne sono sotto, ma come, quelle stesse montagne che prima erano su, quando eri sulla terra normalmente, adesso sono sotto, vedi il Monte Bianco sotto di te. Ebbene, scrivete questo con una sigla che voi non conoscete, ma che adesso vi dico per la prima volta. La sigla è E puntato G puntato. Adesso non vi dico chi è questo edificio. Nel tradimento, nel tradimento le montagne scintillano sotto di noi. Questa è una frase bellissima. Scintillano sotto di noi, cioè siamo più in alto. Con questa spero di avervi, come dire, esortato a una sorta di libertà emotiva e affettiva, per cui quest'oggi stesso la mettiate in atto, selvaggiamente. Questo vale anche per lei, questo vale anche, non si sottragga, perché lì sono dei poveri uomini, eccetera, ma sto parlando delle donne, ma anche degli uomini. Questo vale anche per lei che fa questa faccia da finto dolore. Vale anche per lei. E questo capitoletto qui mi pare che l'abbiamo esaurito, per cui adesso possiamo andare oltre, ma non senza che vi abbia illustrato la reazione alla pesade del lavorare, perché dopo la pesade cambia la psicologia e non sottovalutare la cosa. Senza pesante tu puoi andare avanti un sacco di tempo, ma dopo la pesante cambia un qualcosa. Ha capito bene lei? Perché finge di non capire. Come diventa Emma? Emma diventa sentimentale. Qual è l'arte di Flaubert? In che cosa consiste, come sapete? Nel descrivere la stupidità delle persone e nel descrivere i personaggi sempre enfatizzandoli, seguendo il modello della commedia dell'arte. Allora, non si può descrivere un personaggio che dice solo una coglioneria. Il personaggio dovrà dirne due, tre, quattro coglionerie. Qual è lo scopo? Lo scopo è semplicissimo, è quello di far rimanere in mente al lettore lui. Va bene? Mi ricordo in questo momento di un libro di Natalia Ginzburg, persona che ho avuto l'onore di conoscere, era stata una delle più notevoli scrittrici italiane di questo secolo passato, era amico suo, e c'era questo libro, mi ricordo, scrittrice notevole, ma insomma, notevole, non più di quello, Lessico familiare, qualcosa del genere, a scuola non l'avrete sentito. E lei aveva descritto un ometto che fra l'altro era il protagonista, eccetera, che era una relazione amorosa, eccetera, e questo qui zoppicava. Era un po' ingenuo il sistema, però ogni volta che compariva questo personaggio zoppicava. Poi a un certo momento capivo perché questo succedeva, perché doveva essere fermo in mente, no? Noi dobbiamo caratterizzare un personaggio, caratterizzare quando lo vogliamo raccontare, attraverso un tic nervoso, un'inflessione della voce, un modo di dire. Chi non si caratterizza è perduto, è perduto. L'attore, il professore, lo studioso che non si caratterizza è perduto. Diventa sentimentale e comincia a parlare a Rodolphe teneramente dei propri genitori e dei suoi, dice: dice: mia mamma, la mamma morta a cui lei era legatissima, forse è con tua mamma nel regno dei cieli. Ora Rodolfo, che aveva perso la mamma 20 anni prima, non gliene fotteva niente naturalmente della madre, quindi ascoltava queste cose di Emma in modo un po' incuriosito, pensando: ma questa è proprio una sciocchina. Forse loro due da una stella ci contemplano nel nostro amore. E tutto questo sembrava a Rodolfo francamente intollerabile, nella scioccaggine, insomma. Però nonostante questa è una cosa molto importante, Rodolfo si sente intenerito perché dice: non aveva mai visto un amore così privo di libertinaggio. Un amore libertino è quello in cui la donna fa delle porcate, ma non solo le fa, ma le proclama. Lei era verbalmente inefficiente perché non riusciva a vivere su un piano del sesso realmente totale il suo rapporto. Lei lo viveva sul piano dell'amore. L'equivoco è che lui non lo viveva per niente sul piano dell'amore. Ma quando questo capita, quando in una coppia uno vive sul piano dell'amore e l'altro no, è un proverbio che io ripeto ogni anno quando mi trovo a parlare di queste cose, che quando uno è innamorato è in posizione di svantaggio. E i proverbi che vi dico sempre, ve lo ripeto, alcuni lo conosceranno già, altri forse no. Un proverbio siriano che mi aveva molto colpito a suo tempo, che diceva: di due cuori uno è sempre caldo, l'altro è sempre freddo. Quello caldo non ha valore ed è gettato via, quello freddo è più prezioso di un brillante. Cioè, chi ama di meno sostanzialmente ha il controllo della situazione, chi ama di più no. Allora quando un uomo o una donna sente che il partner è ormai nelle sue mani e lui non l'ama, allora si sente in diritto di qualcosa di infame, che perdona in genere molto facilmente a se stesso. In che cosa consiste l'infame? Che tratta male l'altra persona. La tratta male pensando: intanto qualunque cosa vi posso permettere di fare, l'altro rimane qui buono come un cagnolino. Ho reso l'idea? L'altra persona non solo è deluso, il poveretto, la poveretta, ma soffre enormemente e pensa che questo disamore non lo merita, perché c'è sempre questa curiosa idea che l'amore degli innamorati sia legato al merito. Me lo merito o no? Ma il problema del merito non c'entra assolutamente nulla. Uno può avere tutti i meriti del mondo, ma se è una cozza rimane una cozza, se è una persona goffa. Io ho conosciuto uno, per esempio, nella mia giovinezza, che aveva una, era brutto, ma non era tanto la brutta, era la goffaggine che lo dominava. E in tutti i contatti che aveva con delle ragazze, io assistevo con orrore a come questo dilapidava il poco che aveva di fronte alla ragazza meglio intenzionata, no? Perché ma l'amore non c'entra con il tempo, l'amore è profondamente ingiusto, insomma. La trattava male, ma più, questa è una cosa tipica che avviene alle donne, più la donna veniva trattata, la donna Emma veniva trattata male, più aumentava le sue tenerezze e cercava di conquistarsi il favore di lui, insomma lui se ne approfittava. È tutta concentrata nel pensiero, su Rodolfo. Rodolfo è tutto. Ecco, quest'uomo che non era nessuno, la cui volgarità probabilmente, se fosse più intelligente, riuscirebbe perfettamente a cogliere, non è intelligente. Perché che cosa vuole in realtà Emma? E questo è un punto interessante. Emma vuole quello che in realtà le donne vogliono. Ricordate quello che Flaubert diceva: che cosa vogliono veramente le donne? Ve lo ricordo, l'eterno sposo. Ora, l'eterno sposo non è, per parlare chiaro, uno che abbia delle grandi capacità sessuali. Io non ho mai conosciuto nella vita una donna che dice: mi voglio sposare con quello perché ha... No, sono barzellette degli uomini, sono barzellette maschili, i quali uomini in genere imprestano alla donna la psicologia sessuale maschile, che è completamente diversa. Mentre un uomo può dire: ma sono in genere, voglio sposare una donna perché ha certe caratteristiche, no? 80, com'è? 66, 89, 90, le misure tipiche, cioè. 60, 89, 90, erano quelle di Brigitte Bardot. Ma la donna no, la donna chi vuole? Vuole un uomo intelligente, lo dice anche. Uno che possa ammirare, uno che sappia tutto di equitazione. Essendo un imbecille, capite che può pensare a... deve sapere di equitazione, di arte, di questo, di quell'altro. Ora chiedere tante cose, un po' conoscerlo effettivamente era un po' impegnativo, era un po' impegnativo. E adesso capita un fatto incredibile. Charles si trova a poter mostrare che è qualcuno, che è un bravo medico. L'anima nera, cioè il farmacista Omé, quello che non aveva nessun titolo di studio per fare il farmacista, non aveva sufficiente, il bastardo deista, illuminista, l'imbecille che alla fine, come vedremo, verrà glorificato, gli viene in mente che si potrebbe tentare, sapete che lui amava il progresso soprattutto, era un illuminista, si potrebbe tentare un'operazione chirurgica facile facile, che desse lustro al paese, a Yorville, a lui che l'aveva pensata, e poteva servirsi per questo di Charles Bovary. Si trattava di questo. Il ragazzo, il giovane, diciamo così, dell'albergo del Lion d'Oro aveva una malformazione. Aveva il piede equino. Ora ne parlo tranquillamente perché non credo che fra voi sia nessuno che abbia il piede equino. Comunque, guardatemi bene, il piede equino è così, cioè anziché il piede tenerlo così, è così. Capito? Ha presente un cavallo? Beh, così. Ma quindi camminare così, capite che è un po' impegnativo. Ma diventa ancora più impegnativo se il piede è storto. E ci sono due tipi di struttura di piede, come forse dovreste sapere fin dalle scuole elementari: il varismo e il valcismo. Il piede varo, no, lo dico perché Gioia aveva fatto un piccolo studio su questo argomento, il piede varo è storto all'indentro, il piede varo è storto all'infuori. Questo Ippolite aveva il piede equino storto all'indietro, quindi camminava in teoria con stento. In pratica uno ci si abitua alle proprie malformazioni, come sapete, alle proprie malformazioni. E quindi questo zompettava avanti e indietro senza alcun problema, viveva tranquillo la sua esistenza, finché questo rompipalle di Omé ha cominciato a dirgli che forse si poteva fare un'operazione per mettergli a posto il piede. L'episodio si chiama, è l'episodio celebre del pied bot. Bot vuol dire deforme, si scrive B-O-T, le pied bot. Lo propone a Charles e pare che l'operazione consista in due parti. Bisogna tagliare il tendine. Pensi fosse capitato a lei, eh? E poi c'è questa macchina di legno, di ferro e di cuoio, una specie di scatola in cui il piede viene incastrato finché non si rimette a posto. Immaginate con la scienza del tempo, questo folle di Omé ne parla a Charles Giacomo lì, dicendogli che è una cosa da nulla, che darà gloria a lui permanente, eccetera. Scrive nel giornale del luogo che c'è un grande medico, Monsieur Bovary, che sta per fare questa operazione. Il povero Hippolyte non capisce un tubo di quello che sta avvenendo, salvo il fatto che dovranno intervenire sulla sua persona, e la cosa viene detta ovviamente a Emma. Emma è piena dell'amore per Rodolphe. Ma come sapete, o come saprete nei vostri futuri adulteri, in realtà non è così facile sopportare il peso di una relazione extraconiugale. E poco poco, io ne ho viste di donne, ma quante ne hanno viste di donne così? Ma non posso dirvelo. Poco poco che una donna trovi un conforto nel marito, lei è disposta a tornare, per così dire, sulla retta via, e quindi esulta, perché il senso di colpa poi si insinua in ognuno, e quindi esulta l'idea che il marito possa dare buona prova di sé finalmente, perché certamente l'aveva aggiustato la gamba alla papà di Emma non era stato sufficiente. Una volta aveva dovuto con una siringa togliere dei pus, insomma, si tratta di cose da nulla. Qui era un'operazione di un certo peso. L'operazione avviene. Ma prima che avvenga, lei si sente esaltata. Chiacchierano affettuosamente, direi amorosamente, lei cinguetta a tavola. Quel giorno in cui si annuncia che ci sarebbe stata questa operazione, lui si prende anche il bicchierino di caffè alla fine, la tazzina di caffè che si prendeva solo la domenica per festeggiare. Sapete, nelle coppie ci sono queste abitudini: quando c'è qualcosa da festeggiare, il lavoro di lui che ha trovato, il lavoro di lei, eh? Si arriva all'operazione. L'operazione consiste in qualcosa di cruento, perché un urlo terribile riempie l'aria quando viene tagliato il tendine del piede. Però si spera. La macchina di legno, di ferro e di cuoio, questa specie di gabbia, viene allestita e il piede del poveretto viene infilato lì dentro. Si dà notizia dell'operazione, si dice che Hippolyte sta sensibilmente meglio, ma in realtà il povero Hippolyte, dopo un giorno, comincia a darti fuori da matto. Urla, tutto è diventato, sta diventando nero. Gli tolgono la macchina, la cassetta, il poveretto respira, ma ha avuto appena tempo di respirare che gliela mettono di nuovo, stringendola di più. Il poveretto urla, la gamba diventa nera. Il poveretto naturalmente si invoca tutti i santi di fronte a un fatto di questo genere, si pensa alla fine di chiamare un medico, uno specialista che arriva. Questo arriva con l'altezzosità che hanno tutti i grandi medici. Voi siete giovani, ma il signore, che non è più di primo pelo, diciamo così, ma è di secondo pelo, sa quanto possono essere arroganti i medici e come si treme di fronte a loro. Non si chiede nemmeno la fattura a volte quando si esce dai loro studi, che Dio li stramaledica, perché si ha paura. Vai da un oncologo, cazzo! Vai da un oncologo e se quello ti dice no, lei non ha niente, ma tu non chiedi niente, non chiedi la fattura, non chiedi niente assolutamente. Una visita di 5 minuti, 8.000 euro. Arriva Scanivè, guarda la gamba e dice: qui c'è solo una cosa da fare, amputare. amputare. Emma non vuol credere a quello che sente. Ma come? Il marito ha fallito. L'operazione fondamentale per cui sarebbe stata disposta a riabilitarlo. Andate avanti, adesso vi dico io dove dovete andare. Eccolo qui. 2, 2, 2, 5. Allora, dopo questa, dal capitolo 10, girate 1, 2, 3, 4, no, dal capitolo 11, mi va, 11, girate 1, 2, 3, 4, 5. Il capoverso è Charles se promet de long en large dans sa chambre. 258, dice Adriano. Leggiamo. Stiamo attendendo l'operazione questa volta di Canivet, che deve amputare. Ma è come se non ci si credesse, ma come? Un'amputazione, questo che aveva camminato bene tutta la vita. Si immagini lei in questa parte. Charles camminava in lungo e in largo nella camera, gli stivali scricchiolavano sul parquet. Siediti, ella disse, mi dai fastidio. Lui si risedette. Come dunque aveva fatto lei, che era così intelligente, per ingannarsi ancora una volta? Del resto, per quale deplorevole mania aveva così inabissato la sua esistenza in sacrifici continui? Ella si ricordò tutti i suoi istinti di lusso, tutte le privazioni dell'anima, le bassezze del matrimonio, della vita in comune, i sogni che cadevano nel fango come rondini ferite, tutto quello che aveva desiderato, tutto quello che s'era rifiutata, tutto quello che avrebbe potuto avere. E perché? Perché? In mezzo al silenzio che riempiva il villaggio, un grido lacerante traversò l'aria. Bovary divenne pallido da svenire. Ella corrugò le sopracciglia con gesto nervoso e poi continuò. Era per lui, tuttavia, per quest'essere, per quest'uomo che non capiva niente, che non sentiva niente. E infatti lui era lì, tranquillo, e senza nemmeno pensare che il ridicolo del suo nome avrebbe ormai sporcato lei come lui. Aveva fatto degli sforzi per amarlo e si era pentita, piangendo di aver ceduto a un altro uomo. Ma se il piede operato era un piede varo, va bene, all'interno, ma se fosse stato un valgo, esclamò all'improvviso Bovary, che meditava. Cioè, ha sbagliato l'operazione. Al colpo improvviso di questa frase che cadeva sul suo pensiero come una pallottola di piombo in un piatto d'argento, Emma trasalendo alzò la testa per indovinare quel che voleva dire, e si guardarono silenziosamente, quasi stupiti di vedersi. Tanto erano nella loro coscienza lontani l'uno dall'altra. Charles la considerava con lo sguardo torbido di un uomo ubriaco, continuando ad ascoltare immobile le ultime grida dell'amputato, che eseguivano in modulazioni strascicate, tagliate da balzi acuti, come l'urlo lontano di qualche bestia che si sgozzi. Emma si mordeva le labbra livide e, girando fra le dita dei pezzettini di un po' che aveva rotto fissava su Charles la punta ardente delle sue pupille, come due frecce di fuoco pronte a partire. Tutto in lui irritava. Adesso il suo viso, il suo abito, quel che non diceva, la sua persona intera, la sua esistenza, infine. Ella si ripeteva, si pentiva come di un crimine della sua virtù passata, e ciò che ne restava ancora crollava sotto i colpi furiosi del suo orgoglio. Ella si dilettava di tutte le malvagie ironie dell'adulterio trionfante. Il ricordo del suo amante tornando a lei con attrazioni vertiginose, e vi gettava la sua anima trascinata verso quell'immagine da un entusiasmo nuovo. E Charles le sembrava così distaccato dalla sua vita, così assente per sempre, così impossibile e annullato, che se fosse stato sul punto di morire o avesse agonizzato sotto i suoi occhi. Ci fu un rumore di passi sul marciapiede. Charles guardò e attraverso la persiana abbassata scorse al bordo del mercato in pieno sole il dottor Canivet, che asciugandosi la fronte col foulard, Omé dietro a lui portava in mano una grande scatola rossa. Dove serve la scatola? La gamba. E si dirigevano tutti e due verso la farmacia. Allora, per tenerezza improvvisa e scoraggiamento, Charles si voltò verso la moglie e le disse: abbracciami, mia cara, lasciami. Ella disse, tutta rossa di collera: ma che cos'hai? Che cos'hai? Ripeteva lui stupefatto. Calmati, riprenditi, tu sai che ti amo, vieni, basta! Ella gridò con aria terribile e, scappando dalla sala, Emma chiuse la porta così forte che il barometro cadde dal muro e si ruppe per terra. Charles s'accasciò nella poltrona sconvolto, cercando quel che poteva avere, immaginando una malattia nervosa, piangendo e sentendo vagamente circolare intorno a sé qualcosa di funesto e di incomprensibile. Ci vediamo giovedì. Così facciamo.